Buonasera a tutti. Continuate pure a mangiare, non preoccupatevi. Anzi, buon appetito. Noi abbiamo bevuto fino adesso, quindi siamo pari. È difficile rimanere sobri, quindi. Allora, io mi chiamo Fabrizio Tassi, sono un giornalista, anche scrittore a tempo perso. Lui invece è Luigi Balocchi, l'autore di questo libro, che si intitola Il diavolo custode, pubblicato edito dalla Meridiano Zero, che è la storia del bandito Sante Pollastro. Cominciamo con un ringraziamento di questo invito a Leoncavallo e a quelli del Folletto, che noi conosciamo bene, visto che veniamo da Abbiategrasso, conosciamo la piccola rivoluzione culturale e sociale che hanno portato laggiù sul territorio, perché poi il tema di questa manifestazione mi sembra proprio quello, il legame delle cose col territorio, della vita, del vino, delle persone, delle storie, quindi agire sul territorio, e loro l'hanno fatto da un piccolissimo posto, un ex casello ferroviario, e non sono un'altra cosa dalla città. È capitato anche un anno che decine di classi scolastiche, ad esempio, andassero a visitare una mostra che loro hanno organizzato sul tema della droga, centinaia di studenti che andavano in centro città, al Castello Visconteo di Abbiategrasso, nei sotterranei, vabbè, simbolico, per vedere questa mostra che parla della droga, di riduzione del danno, che metteva i ragazzi davanti alle cose come stanno. Cioè, quindi, no, non sono diventati tutti tossici. Quindi questa è una rivoluzione in qualche modo, vabbè. E questo è quello che riescono a fare, lo vediamo qua, basta andare in giro, vedere quello che sono riusciti a fare anche qua, Leoncavallo. Va bene, e parliamo di territorio perché questo è uno scrittore legato al suo territorio. Lui è nato a Mortara, è cresciuto da Abbiategrasso, poi vabbè, ha girato l'Italia perché suo padre se lo portava dietro, però un tratto essenziale è questo legame con quel posto quando era ancora paese, e poi magari lui ci spiega che cosa significa, che non è l'essere strapaesani, provinciali o meno sì, ma in un modo tutto suo, che poi ci spiega magari. A me tocca dire due parole su di lui, perché altrimenti non sappiamo chi è. Lui dice su niente, forse una volta. È uno scrittore diverso dagli altri, so che ormai lo si dice di tutti, è una delle cose più banali che si scrivono sulle quarte di copertina di solito per lanciare un nuovo scrittore, però questa volta è vero. È vero per diversi motivi, non è di sicuro lo scrittore accademico, il poeta laureato, cioè quello che applica uno schema, un genere, uno stile perché piace, perché funziona con i lettori, perché piace ai critici, perché corrisponde all'idea che mi sono fatto di me stesso, tutte queste cose qua, no, non scrive per quei motivi. È un maestro elementare, anzi alcuni recensori in certi giornali hanno scritto maestro di Vigevano, perché volevano creare un'evocazione, forse volevano evocare Mastronardi, ed è un cultore del dialetto, non il dialetto meneghino vagamente, ma dialetto proprio biagrassin, di Abbiategrasso, e questa specificità è tutto. E anche questo ci spiegherà perché, magari. Dialetto come una forma di, come posso dire, di resistenza. Aderire perfettamente alle cose. Ma dice aderire perfettamente alle cose. Ecco, resistenza quindi al brutto, alla modernità, cioè il dialetto come qualcosa che è legato a una certa tipologia umana, un certo modo di vivere, di pensare, un certo modo di stare insieme, di condividere le cose, che non esiste più. Quando leggevo le sue prime cose, perché lui poi scrive da tanti anni e ha scritto anche dei racconti che erano quasi tutti in dialetto, mi veniva in mente quello che scriveva di quell'imperatore cinese che per cambiare i costumi del suo popolo aveva inventato un nuovo linguaggio. Perché linguaggio, la lingua è quella che fa, inventa le cose, quello che ti permette di conoscerla. E quindi usare una certa lingua piuttosto che un'altra vuol dire vivere in un mondo piuttosto che un altro. e quindi lui ha spesso parlato del passaggio traumatico tra il mondo del dialetto e il mondo dell'italiano, oggi italiano televisivo. E quindi la semplificazione anche del pensiero, oltre che del modo di esprimersi, del modo di raccontarsi, del modo di stare insieme, anzi adesso non si sta neanche più insieme, a parte in queste occasioni. Quindi questa è la sua particolarità. La particolarità è quella che in qualche modo ha inventato un linguaggio che è il suo, che è un miscuglio di italiano, di dialetto, arcaismi, neologismi, un linguaggio pieno, irruento, anche maleducato, che nel caso di questo libro si è incanalato in una direzione, in un personaggio, che è quello del Sante Pollastro. È nata questa consonanza tra lui e questo personaggio che ama, il bandito forse più famoso della storia italiana, e non solo italiana, e qui in qualche modo il suo dialetto è finito dentro l'italiano, dentro il linguaggio italiano, è diventato ritmo, è diventato un modo di esprimersi, di usare gli aggettivi, comunque per capire che è uno scrittore diverso basta leggersi uno o due pagine del suo libro e lo si capisce subito. Infatti scappa, è troppo difficile. Scappa in via. Quindi io ho già parlato troppo. Sto dicendo delle cose vere o sono tutte...